anche le foche bevono Radio Wombat. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è una nuova puntata di Basement Records, dei recuperi vinilici di Basement Records e per essere precisi la 62esima puntata di Basement Records. Siete sempre qui ovviamente sulle frequenze di Radio Wombat. Grandi novità stasera. Ma prima di iniziare a ragionare, partiamo subito come di consueto ricordandovi i nostri indirizzi per mettervi in contatto con noi. Naturalmente il sito è sempre radiowombat.net e la nostra frequenza in onde medie, rigorosamente in AM, se vi trovate qui nei dintorni di Firenze, è sempre 1359 1359 qui sulle onde medie fiorentine. E il nostro indirizzo di posta è sempre lo stesso, posta wombat@insiberia.net, e i nostri canali social sono sempre su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radiowombat Firenze. Ma le grandi novità di stasera è appunto un nuovo ritrovamento vinilico da dove tutto partì, che chi mi segue dalle prime puntate saprà o si ricorderà che questa puntata, che Basement Records nacque per via di un recupero di due buste di sette pollici a casa dei miei genitori. E bene, alla 62esima puntata ne è spuntato fuori improvvisamente un altro da un armadio abbandonato lì da più che chissà quanti decenni, almeno tre, perché sono tre o quattro, anzi, perché sono tutti sette pollici, tutti 45 giri rigorosamente compresi tra il 1968 e il 1973. Non posso fare altro che continuare a ringraziare Stefanone per averceli prestati per andarceli ad ascoltare stasera. E quindi un po' un ritorno alle origini per Basement Records. Poi ci sono ancora vari ritrovamenti vinilici lasciati a metà, ma che continueremo nelle prossime puntate, quelle con i ritrovamenti del Reverendo, i ritrovamenti con Bloody Mary. Però questa novità di settimana scorsa, di averne trovati altri a casa dei miei, me l'ha fatta prendere bene, quindi oggi va così con i dischi di recupero di Stefanone, tutte grandi chicchine appunto, comprese in quel quinquennio 68-73, che per la musica in generale, insomma, non è che andasse proprio malaccio. Infatti quasi a occhi chiusi si possono scegliere stasera questi sette pollici. Ed il primo da cui partiamo non è, è un qualcosa che ho messo per primo, innanzitutto perché è stato per me una grandissima sorpresa ritrovarlo appunto in queste buste disperse dalla notte dei tempi. E sto parlando fondamentalmente di un pezzo country rock, lo possiamo definire, 1970 spaccato. L'artista in questione è un artista statunitense molto famoso oltre manica, Neil Diamond, uno dei pesi massimi del country rock di quegli anni. Ma il motivo per cui sono particolarmente affezionato a questo pezzo è perché un po' da appassionato di videogiochi quali sono, questo brano è in uno dei miei videogiochi preferiti con cui ho passato veramente interminabili serate in montagna in mezzo al freddo invernale con gli amici a giocare a Skate 3. Ovviamente, essendo snowboardisti, non è che si potesse fare qualche gioco diverso da quello per cui andavamo a fare su in montagna. E questo gioco, che è un'icona per i tavolari di tutto il mondo, Skate 3, nella sua colonna sonora, tra le tante canzoni inserite in quel gioco, c'è appunto questa Cracklin' Rosie del 1970, che noi da buoni fulminati poi ci andavamo a cantare a squarciagola per le seggiovie mentre risalivamo su in quota, e va bene così. Quindi non potevo metterla per prima, come primo recupero dei nuovi recuperi, questa Cracklin' Rosie di Neil Diamond. Non mi giudicate, vi sento di là dall'altra parte dell'etere. Questo è Neil Diamond con Cracklin' Rosie. Questi sono sempre i vinili di recupero di Basement Records, e questa naturalmente è sempre Radio Wombat. Cracklin' Rosie, get on board. We Inutile dirvi che l'ho cantata a squarciagola e fortunatamente mi ero ricordato di spengere il microfono. Bene per voi. Fantastica, non potevo non metterla per prima, scusatemi. Anzi, scusatemi niente, perché proprio ci stava proprio bene. E anche il secondo vinile di stasera lo metterò per una questione d'affetto, perché appunto è uno dei gruppi preferiti di mio padre, i Chicago, con cui ho ricordi proprio di quando ero bambino che me li faceva ascoltare. Questo è un singolo estratto dal loro primo album, Chicago Transit Authority, del 1969. Chicago, c'è un'intera puntata di Tonight Alive, se casomai ne avreste dubitato, dedicata ai Chicago, quindi penso di non dovermi dilungare in più di tante spiegazioni sulla loro carriera. Questo era il secondo brano contenuto nel lato A del vinile originale, Does Anybody Really Know What Time It Is? 1969, questi sono i Chicago, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat, Chicago. Thank you. L'altro, ora che mi sovviene questo pezzo, Does Anybody Really Knows What Time It Is, mi ricordo adesso che l'avevo usato tra l'altro come sigla, proprio come sigla della puntata sui Chicago. Però rimaniamo sempre in questo ambito definito dalla critica brass rock, per ovvi motivi, visto l'intenso uso degli ottoni che viene fatto in questa particolare tipologia di rock, e i rivali, gli alter ego in quel periodo dei Chicago erano i Blood, Sweat and Tears, tra l'altro anche loro incidevano per la stessa etichetta discografica, la CBS. E altro vinile prossimo, 7 pollici di recupero, è il primo singolo estratto dal loro primo album, sempre in quel 1969. Uscirono proprio nello stesso anno, un genere, appunto lo stesso filone, lo stesso genere, poi definito brass rock, e il prossimo vinile che ci ascolteremo, il prossimo 7 pollici, è proprio degli Blood, Sweat and Tears, e è Spinning Wheel del 1969, sempre qua ai vinili di recupero di Radio Wombat. Ovviamente qua siamo a Basement Records, l'ho invertita stavolta, tanto per cambiare, painted poem. pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the color. Questa era Spinning Wheel dei Blood, Sweat and Tears. Sempre 1969. Facciamo un ulteriore passo indietro, perché quando all'inizio vi avevo detto che fondamentalmente questi 45 giri erano del quinquennio 68-73, in realtà ora già con il prossimo vinile vi devo confessare che non vi ho detto proprio tutta la verità. Infatti dobbiamo fare un altro passettino indietro. Questo è un vinile del 1967, si tratta di Brian Auger con i Trinity, artista e gruppo che ci siamo già potuti godere diverse volte qui a Basement Records, perché ce n'era almeno altri due o tre, se no, la memoria non mi fa difetto, erano già passati tra i precedenti recuperi. Evidentemente era un gruppo che piaceva a Stefanone, e devo dire, come dargli torto, anch'io poi li ho adorati. Però questo dovrebbe essere uno dei loro primi lavori, infatti ancora non era arrivata a fare la cantante Julie Driscoll, qui ancora erano solamente Brian Auger e The Trinity. Brian Auger, grandissimo organista. Questo vinile, questo 7 pollici, questo 45 giri che ci andremo a breve ad ascoltare, è del 1967, come già detto, ed è un 45 giri italiano edito da Marmalade Original Recordings e poi distribuito in Italia per Ricordi. E questo brano che ci andremo a sentire in realtà è una cover, cosa che Brian Auger and the Trinity facevano proprio normalmente, di riarrangiare grandi successi del passato. In questo caso sono andate a pescare con un gruppo che già di per sé è una bomba, ovvero Booker T and the MGs. Grandissimo, grandissimo gruppo con un funk e un tiro proprio nel proprio DNA. E questa cover è Red Beans and Rice, appunto, come dicevo prima, brano originale di Booker T and the MGs, qui riarrangiato e reinterpretato da Brian Auger and the Trinity, 1967, sempre qua dai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no. Ah! e voilà. Direi una versione decisamente più psichedelica rispetto al funky di Booker T and the MGs. Questi erano Brian Auger e i Trinity, 1967. Adesso risconfiniamo con il prossimo 7 pollici in zona anni 70. Infatti andiamo qualche anno più avanti, andiamo nel 1972 con un altro organista degno di nota, magari un po' meno famoso di Brian Auger. Si tratta di Rod Argent. Questo 45 giri del 1972, edito su Epic Records, appunto Hold Your Head Up, è un vinile originale americano, e sul lato B c'è Closer to Heaven, ma noi ci andremo ad ascoltare Hold Your Head Up, che tra l'altro, rovistando un po' in giro quando ho ritrovato questa manna in forma vinilica, ammetto la mia ignoranza, non sapendo chi fosse Ron Argent, ho scoperto che proprio questo brano, che fu il singolo del 1972, ovvero Hold Your Head Up, è considerato da Rick Wakeman degli Yes, considerato uno dei migliori organisti nell'ambito progressive rock. Citò proprio Rod Argent e questa Hold Your Head Up come, secondo lui, il miglior assolo di organo registrato fino ad allora. Ora, va detto che questa versione di questo 7 pollici chiaramente non è la extended version, quindi vi dico già da prima di mettere la puntina sul solco che non ci sarà questo famoso assolo di organo, ma sarà quella che ai giorni nostri viene definita come una radio edit, una versione corta di 3 minuti e 15 a uso e consumo delle radio per i loro passaggi radiofonici e per le classifiche. Poi ovviamente chi si comprava il singolo o l'album, appunto, si sarebbe potuto godere anche la versione estesa che, se non vado errato, dura praticamente il doppio di questa versione qua, che è la versione short, che infatti è poco più di 3 minuti. Quindi non pensiate che vi abbia detto un sacco di fregnacce con Rick Wakeman e l'assolo di organo, semplicemente in questa versione è tagliata prima a uso e costume delle radio mainstream e popular, ma radio mainstream non nel senso di Radio Wombat, di radio mainstream degli anni 70, e quindi ora con 50 anni di distanza va benissimo anche per Radio Wombat e specialmente per i recuperi vinilici di Basement Records. E questo è Ron Argent. Thank you. questa era Hold Your Head Up. Ovviamente poi da questo punto in poi nella versione extended partiva il famoso assolo di cui parlavamo prima. E insomma, se vi è piaciuta, andatevela a recuperare, tanto l'extended version la trovate tranquillamente sul web. E poi il prossimo disco, facciamo un passetto indietro di un paio d'anni, torniamo nel 1970, disco che già dall'etichetta Tamla Motown vi dovrebbe già dare tutte le coordinate. Stiamo parlando di un peso massimo assoluto, infatti Stevie Wonder, Stefanino Meraviglia, che dire, non si può dire niente su Stevie Wonder, cioè, bambino prodigio fin dalla più tenera età, e poi ha fatto tutto quello che ha fatto per la storia della musica. Ora, questo singolo è abbastanza famoso di Stevie Wonder, non ai livelli di Master Blaster o di Superstition o dei suoi più grandi successi, ma anche questo singolo del 1970 devo dire che ebbe anche giustamente un più che discreto successo, rimane una delle hit della carriera del buon Stevie Wonder. E sul lato B di questo singolo, sempre di Casa Motown, c'è i Rare Earth, altro gruppo funky soul che reinterpretano Get Ready dei Temptation. Però come non ascoltare appunto Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours di Stevie Wonder, probabilmente se non vi dice niente il titolo, anche pronunciato come le bestie come l'ho pronunciato, però secondo me come partiranno le prime note di questo 45 giri vi ritornerà in mente questo grande successo di Stevie Wonder. E siete sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, questo è Radio Wombat, stasera solo 7 pollici. Like a fool I went and stayed too long. Now I'm wondering if your love's still strong. Yeah. pezzone. E di tastierista in tastierista, appunto, ormai dopo Brian Auger, Argent, Stevie Wonder, volevo farvi ascoltare quest'altro recupero vinilico che ho trovato in mezzo a tutta questa massa di 7 pollici, con anche questo ha un bel piano, un gruppo che devo essere con voi, sapete che sono la sincerità davanti al microfono, devo ammettere la mia ignoranza prima di ritrovare tutta questa massa di 45 giri, non li conoscevo. Sto parlando del gruppo inglese degli Heads, Hands and Feet. Siamo sempre negli anni 70, 1971 per l'esattezza. Questo è, in realtà, anche se il gruppo era inglese, è stato pubblicato nel loro lancio in Germania nel 1971 con la Island Records. E che dire, andiamoceli direttamente ad ascoltare questi Heads, Hands and Feet, e poi magari mi saprete dire se vi hanno convinto oppure no. A me hanno convinto, e anche parecchio. Andiamoceli ad ascoltare. Heads, Hands and Feet, Warming Up the Band, 1971, ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Shake, shake the fight. Sì, la so, quella del piano era un mero pretesto per fare un collegamento con i pezzi di prima, ma concedetemelo, via. E il prossimo vinile che è pronto a essere piazzato sul piatto, anche qui torniamo in casa Motown, quindi già marchio di garanzia, e anche qua con dei nomi ormai già ben noti per gli abituali ascoltatori e ascoltatrici di Basement Records. Infatti stiamo parlando dei Four Tops, gruppo diciamo ai massimi livelli di quelli che erano i gruppi vocali a cavallo tra gli anni 60 e che hanno continuato poi anche all'inizio degli anni 70. È più uno stile diciamo a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, però i Four Tops e i Temptation riuscirono a portare appunto la classicità dei gruppi vocali statunitensi anche più in là con gli anni, anche all'interno degli anni 70, reinventandosi e provando varie sfumature e contaminazioni. Questo è un singolo del 1972, ripreso dall'album Nature Planet, dello stesso anno, dei Four Tops, che appunto è il lato A di questo 7 pollici, ma in realtà noi ci andremo ad ascoltare il lato B di questo vinile, che è I'll Never Change, giusto così per spirito di contraddizione e per non ascoltarci sempre i classici lati A. Ma con così tanti anni di distanza è bene andare anche a ricercare un qualcosa di diverso che non fossero i classici singoli fatti uscire per promuovere il disco. E quindi adesso ci andremo ad ascoltare il lato B, che in questo caso è I'll Never Change. Loro sono i Four Tops di casa Motown, 1972, siamo sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records e siete sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat. Never stop loving. E questi erano dei classicissimi Four Tops del 1972. Ma l'altro gruppo che avevo nominato prima non è che l'avevo nominato a caso. Infatti, per prossimità, diciamo, il prossimo vinile che andrò a mettere sul piatto è proprio un disco dei Temptation. In questo caso dell'anno precedente, prima eravamo nel 1972, adesso siamo nel 1971, preso dal loro album appunto di quell'anno, Sky is the Limit, e che ci andremo ad ascoltare è il lato B del 1971. Vedo adesso che in realtà il lato A nel 1967, e Sky is the Limit è il disco del 1967. Il brano in questione del lato A è Gonna Keep Trying Till I Win Your Love. Ma noi ci andremo ad ascoltare il lato B, che è, secondo me, a mio modestissimo parere, molto più affine ai miei gusti. Infatti siamo molto più sul versante funky, appunto parlando prima di gruppi vocali che erano partiti dalla classica tradizione gospel e doo-wop. I Temptation poi si sono reinventati anche nel versante più funkeggiante e più danzereccio, e questo è il singolo del 1971, Superstar, Remember How You Got Where You Are, dei Temptation appunto. Andiamocelo ad ascoltare subito e andiamo a farci un bel balletto, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Questi sono i Temptation, Superstar. sempre grandissimi Temptation, che tiro ragazzi. Ero qui che me la stavo ballando da solo in regia del Wombat. E prossimo vinile quasi pronto sul piatto. Andiamo, siamo nel 1900, scusate che me lo sono perso, eccolo qua, sempre nel 1971, 7 pollici direttamente da Memphis, USA, della, sulla Vault Records, un gruppo che non conoscevo, sono i Dramatics, prodotto da Tony Hester e arrangiato da Johnny Allen, aprile 1971, c'era anche scritto sulla, sul centrino, appunto stavo dicendo, della Vault Records di Memphis, Tennessee. E andiamoci ad ascoltare questi Dramatics, che secondo me non sono niente male. Vedo che era stato messo un'ulteriore etichetta sul centrino, contrassegnando appunto questo lato come hit side, quindi evidentemente nel 1971 il successo di questi Dramatics aveva anche varcato l'Oceano Atlantico, era arrivato fino a noi, se no non mi spiego come faccia avere questo 7 pollici tra le mani. E non possiamo fare altro adesso che andarcela ad ascoltare. What you see is what you get, dei Dramatics, 1971, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. Plastic. You know some people are made of wood. Some people have hearts of stone. Some people are up to no good. What you see? Niente male, niente male. Questi erano i Drumatics, direttamente da Memphis, Tennessee, 1971. E il prossimo vinile che è pronto, quasi pronto, per essere appoggiato sul deck, sono delle vecchie conoscenze, cioè delle vecchie conoscenze per Basement Records. Infatti avevamo già trovato almeno un altro 7 pollici di questi Night Lighters, 1900, se non mi sbaglio, siamo sempre negli anni 70, ora non ritrovo l'anno, perdonatemi. Però appunto, altro disco di importazione americana, edito su RCA Victor, e arrangiati e prodotti da Vernon Bullock e da questo Fuqua, ora non mi ricordo il nome, però è un... È un produttore che appunto era il produttore nonché uno dei membri dei Night Lighters, se non ricordo male. Questo è un singolo estratto dal loro album Instrumental Direction, e ci andremo ad ascoltare il lato A di questo singolo. Stiamo già andando in territori più danzerecci, comunque si dovrebbe essere su territori funkeggianti, se non ricordo male. E adesso ci andremo ad ascoltare Cherish Every Precious Moment dei Night Lighters. Inutile dire che siete sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente Radio Wombat. Thank you. Davvero niente male anche questo dei Nightlighters, che ho recuperato la data di pubblicazione 1972 per essere precisi, e visto che l'anno è il 1972 continuiamo sempre su quell'anno con un altro disco di importazione, anche questo. Siamo importazione americana, infatti Sussex Records, e l'artista in questione, anzi la band in questione, è Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band. Ora, Dennis Coffey era un membro di una delle house band di casa Motown, dei Funky Brothers, per essere precisi. Una delle, si chiamavano appunto house band perché, come già è successo, come erano anche i Booker T and the MGs, ad esempio i Bar Keys, erano quelle band che erano proprio letteralmente di casa negli studi della propria etichetta discografica, e i vari artisti che non avevano una band d'accompagnamento, quando andavano a registrare, usufruivano del mestiere di queste house band, house nel senso di casa discografica, non di house music, ovviamente. E Dennis Coffey, tra l'altro, aveva suonato in una miriade di grandissimi successi di casa Motown, giusto per ricordare i più celebri con cui aveva collaborato e aveva prestato i suoi servizi. Possiamo ricordare i Temptation, Edwin Starr, Diana Ross e le Supremes, Freda Payne. E tra l'altro, l'anno precedente di questo singolo in questione, ovvero nel 1971, Dennis Coffey ebbe un grandissimo successo da milioni di copie nel 1971 con il suo brano Scorpio. Però appunto qui siamo nell'anno successivo e direi che la verve non gli era per niente passata, infatti varrebbe quasi la pena di farveli ascoltare entrambi i lati di questo ottimo, ottimo disco. Non lo farò perché il lato B è leggermente sbeccato, alla fine gli anni sono sempre quelli che sono, e quindi ci andremo ad ascoltare, ma poco male, perché ci andremo ad ascoltare quella che preferisco tra le due facciate, anche se devo dire che sono niente male entrambi, però ci andremo ad ascoltare appunto Getting It On di Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band, Sussex Records, 1972, 45 giri di importazione americana, e siamo sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente sulle frequenze di Radio Wombat, e dove se no. We'll be right back. E questi erano Dennis Coffey and the Guitar Detroit Band. E il prossimo che ci andremo ad ascoltare è un altro peso massimo che credo non abbia bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di Wilson Pickett. Qui anche questo... anzi no, questa è una riedizione italiana del marzo del 1969, edito su Atlantic Records. Questo è uno dei singoli, credo proprio il singolo di quell'anno di Wilson Pickett, che ricorderemo per grandissimi brani Rhythm and Blues e Soul, cioè, ho detto un peso massimo che credo non abbia bisogno di presentazioni, basti solo ricordare appunto che ne so, In the Midnight Hour, The Land of the 10,000 Dancers, tutti grandissimi successi che ha avuto Wilson Pickett, tra i tanti appunto, i primi due che mi vengono in mente. E adesso appunto ci andremo ad ascoltare il singolo o uno dei suoi singoli che fece uscire nel 1969 per la Atlantic Records, e questo è Miniskirt Minnie con la minigonna. E siamo sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, questa è Radio Wombat. Questa era Miniskirt Minnie di Wilson Pickett. Il prossimo album sono altri pesi massimi di quegli anni. Ora anche qui mi sono un po' perso nelle note che mi ero scritto dalle parti, ma normale, tutto normale. E comunque anche qua stiamo andando su territori, direi, classici, perché stiamo parlando degli Isley Brothers. E questo brano in realtà è un brano che è scritto, non so se l'avesse già pubblicato, ma è stato scritto e riusato dagli Isley Brothers, da Stephen Stills, di Stills, Nash & Young, giusto per dire altri tre nomi a caso. E il brano che ci andremo ad ascoltare adesso, anche questo vinile di importazione americana, leggo qua Broadway New York City, sulla Thin Neck Records, Gold Hill Music. E questo brano che ci andremo ad ascoltare, appunto scritto da Stephen Stills e reinterpretato dagli Isley Brothers, è Love the One You Are With, sempre qua ai vinili di recupero di Basement Records, Radio Wombat. E questi erano gli Isley Brothers con questo pezzo scritto per loro o reinterpretato da loro. Ho trovato l'anno 1971, appunto, stavo dicendo scritto per loro o reinterpretato da loro, in realtà l'originale, il pezzo è stato scritto da Stephen Stills. E adesso il prossimo brano che ci andremo ad ascoltare, sempre 1971, visto che abbiamo messo un sacco di roba a Motown per essere paritari in tutti, per essere sempre paritari anche nel mondo della musica, adesso ci andremo ad ascoltare questo singolo di Casa Stax, le due etichette giganti della black music americana. E appunto qui passiamo a Casa Stax e ci andremo ad ascoltare questo singolo del 1971 di Johnny Taylor con Who's Making Love, questo in edizione italiana. E appunto Johnny Taylor con Who's Making Love, 1971, Casa Stax. E qui siete sempre a Basement Records, Radio Wombat. Give me now all your fathers, gather around me and let me give you some good advice. What I'm gonna ask you now, you'd better think about it twice. While you're lying, cheating on your woman, there is something you've never even thought of. Now tell me who's making love to your old lady. While you are making love, give me that. Now who's making love to your old lady? While you are making love, I've seen so many fellas fall in that same old vein, thinking that a woman is waiting to be beat on and treated so bad. Oh, well, let me ask you something. I'm sure that you never even dreamed of. Now tell me, who's making love to your old lady while you were out making love? Trying to run your life, George, it's up to you. Oh, you, oh, oh, you. Reason why I ask this question, I used to be the same way. When I decided to straighten up, I found it was a little too late. Something I never, never dreamed of. Somebody was loving my old lady while I was out making love. Somebody was loving my old lady while I was out making love. This night, now who's making love to your old lady while you were out making love? Ritrovato anche l'anno 1968 per l'esattezza. E adesso ci andremo ad ascoltare gli ultimi due brani, gli ultimi due sette pollici per la puntata di stasera. Guardiamo di alzare un po' i giri del motore. E anche questo un 45 giri di importazione americana, Glades Records, una bellissima un bellissimo centrino verde fosforescente. Qui stiamo parlando di Timmy Thomas, stiamo andando a fancheggiare, e in realtà ha una curiosità questo disco, perché il lato A, siamo nel 1972, il lato A è Why Can't We Live Together, ed è considerato uno dei primi brani pop ad aver usato la drum machine al posto della batteria. Curiosità, appunto, però non è questo il brano che volevo farvi ascoltare da questo singolo a 45 giri, ma in realtà è il lato B che secondo me è la vera bomba o quantomeno è il lato che mi è piaciuto di più andandolo ad ascoltare prima di mettervi qualche boiata. Infatti è sempre bene andare un po' a cercare cosa si sta mettendo, ma Timmy Thomas, appunto, non molto conosciuto, ma immeritatamente, poi non è che fosse proprio un signor nessuno, però non è che sia rimasto proprio tra il cui nome sia rimasto tra i più famosi al giorno d'oggi, diciamo così. E andiamoci ad ascoltare questo lato B del 1972, è Funky Me, Timmy Thomas, Glades Records, Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E questo era Timmy Thomas con Funky Me. E secondo me a naso, e direi che a naso me ne... in fatto di nasi, un po' me ne intendo, così mi sembra che anche il lato B, la batteria fosse in realtà una drum machine, se così l'intuito non mi trae in inganno, ecco. Interessante, molto interessante questo Timmy Thomas. Ricordatevi, comunque siamo pur sempre nel 1972, l'esplosione e l'uso comune e frequente delle drum machine avverrà con un po' di anni più in là, poi specialmente messa in un genere al di fuori. Io l'avevo sempre fatta collocata in un ambito quasi prettamente elettronico, invece messa in questo ambito funkeggiante fa, diciamo, ecco, salta all'orecchio, diciamo così. E la chiusura di questa puntata di stasera, ci sono da questa busta, ultimo recupero ritrovato appunto a casa dei miei, ce n'è ancora un bel po' da poter andare avanti secondo me con le puntate di Basement Records, però ecco l'ultimo 7 pollici che metterò stasera sono altre vecchie conoscenze. Stiamo parlando degli Undisputed Truth, sempre di casa Motown. Vedo il simbolo di Berry Gordy su un lato del centrino, anche se ufficialmente non è edito da Motown, ma appunto da Gordy, e mi immagino che sia Berry Gordy. E qui siamo nel il lato B che ci andremo ad ascoltare è del 1971, preso dall'album dello stesso anno, ovviamente, Face to Face with the Truth. E il lato A invece è del 1967, California Soul, gran pezzo anche questo, più classicheggiante, anche se il basso funky ce l'avevano anche alla fine degli anni 60, però diciamo che nella carriera degli Undisputed Truth poi questo basso prenderà sempre più predominanza nel loro stile musicale. Infatti io me li ricordavo più che altro per il loro periodo disco alla fine degli anni 70, e hanno siglato dei grandissimi pezzi disco, secondo me, che io adoro, gli Undisputed Truth. Però quella era la loro fase finale della carriera alla fine degli anni 70. Qua appunto abbiamo il lato A addirittura 1967, ed il lato B che ci andremo ad ascoltare adesso come ultimo brano di stasera è 1971, ed è il singolo è What It Is degli Undisputed Truth, sempre qui ai vinili di recupero di Basement Records, naturalmente Radio Wombat, e dove se no. Ah! the system. Shut your mouth or take your toy away. Children shouldn't play with bomb, boom, boom, boom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Soul on fire. Sempre una bomba gli Undisputed Truth, non si smentiscono mai, e tutte le volte che li ritrovo non posso fare a meno di metterli di qualunque periodo della loro carriera stia parlando. Però anche stasera siamo arrivati all'ultimo 45 giri per la selezione di questa serata. Ma come di consueto sapete che sono un abitudinario, quindi non posso lasciarvi prima di ricordarvi gli appuntamenti di domani, di domenica, con Radio Wombat. La programmazione parte alle ore 9 con la replica dell'ultima puntata di Lezioni Universali di Esistenza, ultima puntata che è stata registrata ovviamente, che poi il palinsesto proseguirà a mezzogiorno con il consueto notiziario anticlericale, per poi concludersi la sera alle 9:30 con il furto di trasmissione altrui, che, come vi ripeto sempre, è un furto autorizzato, diciamo, dalle nostre radio amiche, e la redazione di Radio Wombat via via, settimana dopo settimana, seleziona le migliori, cioè una delle trasmissioni ritenute migliori di essere ritrasmesse anche qua in Toscana sulle frequenze di Radio Wombat, appunto trasmissioni che però sono delle nostre radio amiche e gemelle che ce le concedano in trasmissione, appunto. E il vostro pena poco, come sempre, non può a questo punto che augurarvi un buon proseguo di sabato sera, un ottimo weekend, e ci ritroveremo qua e ci riascolteremo e ci risentiremo qua sulle frequenze di Radio Wombat sabato prossimo puntuali alle 10:30 per la diretta e il martedì alle 9 con la replica dell'ultima trasmissione fatta, appunto, che sia Basement Records o Tonight Alive. In questo caso sapete che è Basement Records. Un saluto a tutti e ci sentiamo settimana prossima. Viva Radio Wombat! Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi? Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Womba. Ascolta Radio Wombat giorno e notte e il peccato non sarà più un problema. Radio Wombat da sempre e obiettivamente la migliore.